d'Arnold Stegmaier, Silenzio e parola nell'Antico Testamento. Oggi siamo così intensamente circondati di parole che solo a gran fatica riusciamo ad aprirci un varco in questo involucro che ci avvolge. Anzi, il più delle volte non ci accorgiamo neppure della sua presenza. È necessario uno sforzo di riflessione personale per prendere nuovamente coscienza del significato della parola e del linguaggio, e di qui naturalmente anche del significato della rinuncia alla parola, del silenzio, colché non è detto che il silenzio possa essere descritto solo come rinuncia alla parola. Proprio in un'epoca di ipersaturazione verbale, quale è la nostra, tale riflessione deve assumere i contorni della lotta descritta dalla poetessa ebraica Nelly Sachs in una poesia contenuta nella raccolta Heilige Nacht. Qui, o parole, vi prendo prigioniere, come voi, si lavando a morte, prendete prigioniero me. Siete voi i patiti del mio cuore. Scandite il mio tempo, questo vuoto segnato per nome. Lasciate che io veda l'uccello che canta, altrimenti io credo che l'amore sia uguale alla morte. La poetessa deve prendere prigioniere le parole, esse non sono automaticamente a sua disposizione, anche se esse scandiscono il suo tempo. Ella implora le parole di lasciarle guardare l'uccello che canta, per riuscire a distinguere sulla base della forza delle parole stesse, una forza in grado di far fronte al reale, realtà fondamentali della vita, quali l'amore e la morte. La lotta e la preghiera della poetessa mostrano anche a noi fin troppo chiaramente come le parole e il silenzio debbano essere fatte oggetto di riflessione, se davvero esse valgono a rendere sperimentabile mondo e realtà. Con ciò è già delineato l'ambito che qui spetta a me di affrontare muovendo dall'Antico Testamento. La parola è l'ordine del mondo. Nel racconto sul paradiso contenuto in Genesi, capitolo secondo e terzo, un testo che considera le principali condizioni di fondo della vita umana, leggiamo quanto segue. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e introdusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Molto spesso gli esegeti si accostano a questo passo, interpretando l'assegnazione dei nomi da parte dell'uomo come espressione del suo dominio sul mondo animale. Tuttavia non si tratta in prima linea del dominio dell'uomo, ma della manifestazione delle sue possibilità e capacità. Il fatto che l'uomo attribuisca ad ogni animale un nome esprime la finalizzazione del mondo animale a quello umano. Essa non si realizza però in maniera magica, ma costituisce un processo essenzialmente nazionale. Gli animali sono creature prive di nome, solo con la designazione di un nome viene costituito il mondo dell'uomo. È dunque un atto di ricreazione quello che si realizza con questa attribuzione di nomi, nonché un atto di ricreazione del mondo animale, imponendo un nome al mondo animale, l'uomo scopre, definisce e ordina il proprio mondo. La parola con cui a ciascun animale viene dato un nome relaziona il mondo animale a quello umano. Solo il linguaggio rende umano il mondo e fa sorgere il mondo dell'uomo nel vero senso del termine. Per questo è però essenziale, giustamente fa notare Klaus Westermann, che il processo di denominazione non si manifesti in riguardo alle cose, ma agli animali, agli esseri viventi. I nomi vengono dati primariamente ad essere viventi, essi sono i più vicini all'uomo, dove nell'evento originario non vi è ancora distinzione fra nomen generis e nomen proprium, come chiaramente il versetto 23, dove leggiamo: questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. In questa stessa direzione ci guida anche la storia del linguaggio, che mostra come il nome abbracci originariamente sia nomi nel vero senso del termine che designazione di oggetti, rimanendo comunque la denominazione personale l'elemento primario. Ad essere chiamata con un nome non è originariamente la cosa disponibile, ma ciò che si incontra. Il mondo significa per l'israelita, e anche per l'antico orientale in generale, la somma di relazioni risultanti da incontri. Il mondo si costituisce nel momento in cui l'essere cerca l'incontro e come tale viene inserito nel linguaggio. D'altra parte, non solo l'imposizione di un nome in senso stretto acquista un significato di costituzione di mondo e ordine, ma anche lo stesso discorrere e parlare in generale. Questo è attestato già da massime appartenenti alla sapienza antica, come quelle contenute in Proverbi 16, 12, 12 e 13, 12,17. La sapienza in Israele, naturalmente collegata alla sapienza dell'Antico Oriente, si è rivolta con grande attenzione anche al problema della parola del silenzio, accanto ai molti altri problemi della vita. Questo è il motivo per cui nelle riflessioni che seguiranno mi riparò di frequente proprio a passi dalla sapienza ebraica. E così leggiamo: è in abominio ai re commettere un'azione iniqua, poiché il trono si consolida con la giustizia. Dalle labbra giuste si compiace il re, e ama parla con rettitudine. Proverbi 16, versi 12 e 13. Dal punto di vista critico testuale, va notato che l'espressione dover yesharim, contenuta in 13b, risulta inconsueta. Alla luce di quello vuol dire chi parla con rettitudine. Alla luce di alcuni manoscritti si deve leggere probabilmente dover mesharim, chi parla giustizia. Questo stesso modo di esprimersi si ritrova del resto anche, per esempio, in Isaia 33,15, 45,19, eccetera. bene soffermarsi anzitutto sul versetto 13, che con la sua struttura chiastica sottolinea la forte corrispondenza alle sue due affermazioni. Le due espressioni, labbra della giustizia e parlare con rettitudine, sono interpretabili in termini decisamente paralleli e precisamente muovendo da quell'orizzonte che viene definito dalla relazione del versetto 13 con il versetto 12. Con l'espressione personale, il re si compiace, il re ama, viene sottolineato il collegamento delle labbra giuste e chi parla con rettitudine con la funzione del re. Il versetto 12 descrive questo aspetto nel modo seguente: è in abominio ai re commettere un'azione iniqua, poiché il trono si consolida con la giustizia. E infatti, 89,15 e 97,2 descrivono i salmi, descrivono la giustizia e il diritto civile come basi, la stessa radice che compare anche nel nostro proverbio, descrivono la giustizia e il diritto come basi del trono di Dio. Il regno di Dio si fonda sull'ordine cosmico, rispettivamente trova nell'ordine. Il regno di Dio si fonda sull'ordine cosmico, rispettivamente trova nell'ordine cosmico la propria espressione. Enrico Brun fa notare a questo proposito che soprattutto nell'antico Egitto a condurre il trono degli dei e del re erano spesso gradini, e poiché questi gradini erano delimitati da dei fianchi laterali e costituivano con il basamento un tutt'uno, visto dal lato, lo zoccolo del trono formava il segno Ma'at, che significa giustizia, verità, giusto ordine. Ora però il re rappresenta, secondo l'ideologia regale dell'Egitto al tempo della dinastia Ramesside e anche di Gerusalemme, il Dio re sulla terra. A lui spetta di provvedere alla stabilità dell'ordine cosmico divino per quanto lo concerne e di qui anche alla rimozione di ogni eventuale elemento di disturbo. Il contesto indicato dai nostri proverbi, capitolo 16, versetto 12 e 13, afferma dunque che il parlare umano si orienta verso l'ordine cosmico e quindi conforme a questo. In questo modo, colui che parla con rettitudine si trova in armonia con l'ordine universale. Se riesce con il suo parlare ad affermare la Ma'at, ecco che si produrrà una situazione di armonia all'interno dello Stato e della società. Si deve dire addirittura che la parola dell'uomo ha una funzione legale nella misura in cui essa costituisce l'ordine come realtà mondana, significa rendere umanamente sperimentabile l'ordine divino. L'uomo sperimenta il cosmo come creazione di Dio proprio attraverso il linguaggio. Il proverbio 12, verso virgola 17, descrive in concreto qual è il parlare orientato verso l'ordine. Chi aspira alla verità proclama la giustizia, il falso testimone proclama l'inganno. Colui che pronuncia parole fidate costituisce nella sua stessa parola un ordine cosmico divino. divino, quale la mondana, rendendo quest'ordine sperimentabile. In che misura tutte le azioni umane siano determinate dalla parola viene ben espresso da Siracide, capitolo 37,16, asce pantos ergu logos, principio di ogni opera è la parola. Con il termine principio non si intende qui l'istante primo in ordine di tempo, ma il principio, la condizione della possibilità di una prassi di vita umana. Come si può chiaramente comprendere dal versetto 18, Siracide non parla della parola di Dio, ma di quella dell'uomo, tesa come presupposto di ogni agire. La parola può però anche operare distruggendolo. Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Questa domanda, posta all'inizio dei discorsi di Yahweh nel libro di Giobbe, rinvia alla maledizione di Giobbe. Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un uomo. Quel giorno sia tenebra, non lo ricerchi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichi tenebra e morte, stenda sopra una nube e lo facciano spaventoso gli uragani del giorno. Quel giorno lo possieda il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi. Giobbe 3, capitolo 3, versi 3-6. Nella domanda posta in Giobbe 38, verso 2, questo lamento viene definito oscuramento del consiglio divino. Ciò significa che tale discorso offre al caos non mondo la possibilità di annientare la creazione costituita dal consiglio di Dio, vale a dire di consegnarla al caos. Si prospetta così all'orizzonte un discorso in forma di maledizione e di imprecazione che sconfessa l'azione creativa di Dio in favore del mondo. Proprio la parola, il linguaggio, fa dunque sì che l'uomo si renda consapevole del proprio enorme potere e della propria immensa libertà, come riassume con efficace chiarezza il proverbio, capitolo 18, verso 21. Morte e vita sono in potere della lingua, e chi la carezza ne mangerà i frutti. La prima parte del proverbio non intende dire solamente che cose tanto determinanti come la morte e la vita dipendono dalla lingua, vale a dire dalla parola umana. Dunque, la vita dal discorso buono, la morte da quello cattivo. Si può dimostrare come questa sia un'espressione convenzionale attraverso la quale viene rimarcato l'immenso potere della lingua. La seconda parte del proverbio sottolinea la libertà dell'uomo sul potere della lingua, affermando che l'uomo stesso ha nelle sue mani, rimessa alla sua preferenza, la possibilità di usare la lingua in modo tale che essa porti morte oppure vita. D'altra parte, già la sapienza antica richiama l'attenzione sul fatto che al parlare umano viene posto un limite insuperabile per il fatto di sottostare all'illimitato potere discrezionale di Dio. All'uomo appartengono i progetti della mente, ma dal Signore viene la risposta. Proverbi 16, verso 1. Gerhard von Rath fa notare come assai spesso i progetti dell'uomo siano in contraddizione con le sue realizzazioni concrete. Yahweh si può a metà strada fra realizzazione e progetto, orientando in una direzione particolare l'agire concreto dell'uomo. Una simile prospettiva emerge anche nella sapienza esterna al mondo ebraico. Così, ad esempio, nei proverbi di Achikar leggiamo: piccolo è l'uomo, eppure egli fa tanto delle sue parole che si elevano ben al di sopra di lui, giacché la sua bocca è l'accesso attraverso il quale le divinità vengono a lui. E se egli è amato dagli dèi, ecco che questi gli mettono in bocca parole buone. Il parlare dell'uomo sottostà in ultima all'illimitato potere discrezionale di Dio. Questo fatto va sottolineato soprattutto là dove l'uomo crede di possedere con il linguaggio uno strumento del tutto autonomo per far fronte al mondo e per potersi impadronire del cosmo attraverso il linguaggio stesso. A questo tipo di uomini si rivolge attorno al 300 avanti Cristo il saggio Coelet. Nel grande poema cosmologico, Coelet capitolo 1, versi 4 fino 11, Coelet celebra la magnificenza e l'eternità del cosmo. Anche le azioni umane ne sono partecipi, poiché esse ritornano continuamente. Con le parole l'uomo porta l'essere, l'esistente, a se medesimo. Tuttavia, rimanendo il linguaggio sempre legato alla percezione dei sensi, e non essendo questi ultimi in grado di cogliere la pienezza dell'evento cosmico, tutte le parole sono affaticate e nessuno può esprimere il tutto. Capitolo 1, verso 8. Questo significa che l'uomo non è in grado di sostenersi come soggetto, dunque non può raccogliere sperimentando e ricordando la grandezza e la durata dell'essere. Nel capitolo 3, verso 1 fino 9, Coelet sottolinea il fatto che ogni situazione umana non è determinata dall'uomo che in esso si trova, ma dall'esterno. Questo per Coelet significa in ultima da Dio. Egli elabora questa affermazione attraverso 14 coppie di opposizioni, una delle quali recita come segue: per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare. All'uomo, che con la parola porta il mondo a se medesimo, sono posti dei limiti da lui non determinabili, in quanto egli stesso rimane segnato alla determinazione proveniente da Dio. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa è immutabile, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così bene perché si abbia timore di lui. Coelet 3,14. Le qualità della parola umana. Se si considera l'importanza che la parola aveva nella concezione della vita e del mondo presso gli israeliti e gli antichi orientali, non stupisce l'accuratezza e l'attenzione riservate allora alle qualità interne ed esterne della parola umana. Le qualità esterne del parlare umano. Alcuni proverbi contenuti nel libro dei proverbi paragonano le parole a oggetti preziosi. Così, capitolo 20, verso 15, c'è oro e ci sono molte perle, ma la cosa più preziosa sono le labbra istruite. Proverbi capitolo 25, verso 11: come frutti d'oro su vassoio d'argento, così è una parola detta a suo tempo. Gli gli uomini che pronunciano parole istruite possiedono forza di apprensione e abietano gli altri al pari della visione di qualche cosa di splendido e prezioso. Il secondo proverbio afferma invece come un oggetto di lusso lavorato a regola d'arte allieta la vista, così la parola ben ponderata, ben espressa e ricca di contenuto riesce con la sua bellezza ad incantare colui che la ascolta. Con la sua forma compiuta, essa dischiude il cuore ed apre le orecchie dell'uditore. Solo una siffatta parola presentata con arte lascia la propria impronta sugli altri e riesce con ciò anche convincente. La sua bellezza formale le conferisce autorità e potere. A questo si collega anche quando si legge in Proverbi, capitolo 16, 21. Sarà chiamato intelligente chi è saggio di mente. Il linguaggio dolce aumenta la forza di persuasione. Per linguaggio dolce non si intende qui solo la capacità di esprimere ed esporre i propri pensieri, ma anche il modo stesso di presentarli. Chi ad esempio formula il proprio discorso con voce piacevole e pieno di vita, agisce in maniera persuasiva, trovando vigore all'incanto. Certo, non si può trascurare il fatto che ai sapienti non interessava solo una forma estetica, già che le parole ben formate dovevano anche essere ben intenzionate e benevoli. Dove la bellezza desta anche benevolenza, essa ispira fiducia. Questo modo di parlare è in grado di irradiare conforto e vigore, come è ben dimostrato dal proverbio capitolo 12, 25. L'affanno deprime il cuore dell'uomo, una parola buona lo allieta. Un'altra qualità richiesta dai sapienti per il parlare retto viene indicato con la parola ebraica rak, che significa tenero, dolce, morbido, lieve. Il parlare dolce può naturalmente essere inteso in senso dispregiativo, come sinonimo di untuoso e adulatore. D'altra parte, la dolcezza nel parlare è anche qualche cosa di estremamente positivo. Con la pazienza il principe si lascia persuadere. Una lingua dolce spezza le ossa. Proverbi 25, verso 15. Con lo strumento stilistico dell'ossimoro viene indicato specificamente l'effetto quasi impossibile di un parlare dolce e raffinato. Basti ricordare a questo proposito come nel primo libro Samuele, capitolo 25, versi 20 fino a 35, Abigail riesca con fascino femminile, gentilezza eccessiva e grandissima intelligenza a far cambiare opinione a Davide adirato. Le qualità interne della parola dell'uomo. Rivestendo la parola e il parlare un'importanza fondamentale per i rapporti umani, i sapienti hanno meditato a fondo anche sulle qualità interne del discorso umano. Così, ad esempio, Proverbi 23, 15 e 16 e 24,26 affermano con grande incisività che la rettitudine deve sorreggere la parola che crea, rispettivamente documenta i legami più stretti. Particolare attenzione viene rivolta alla parola spesa per un aperto rimprovero. Solo esprimendo in forma diretta e chiara ciò che si vuole esporre è possibile definire malintesi. A questo proposito è esemplare quanto si legge in Siracide, capitolo 19, verso 13 fino 17. Interroga l'amico, forse non ha fatto nulla, e se qualcosa ha fatto, perché non continui più? Interroga il prossimo, forse non ha detto nulla, se qualcosa ha detto, perché non lo ripeta? Interroga l'amico, perché spesso si tratta di calunnia. Non credere a ogni parola. C'è chi struggiola, ma non di proposito, e chi non ha peccato con la sua lingua. Interroga il tuo prossimo prima di minacciarlo. Fa intervenire la legge dell'Altissimo. Un forte richiamo viene fatto alla fidatezza del discorso. Si è soliti usare per questo concetto i due termini emet e emunah. Là dove emet viene usato in riferimento a persone, esso significa fedeltà e sincerità in quanto fidatezza. Così, ad esempio, l'oppresso dinanzi al tribunale può contare sul testimone vero. Anche nei passi in cui emet si riferisce a parole, deve essere chiaro che ad esse ci si può affidare proprio in quanto provenienti da un uomo degno di fiducia. Questa stessa qualità del parlare è implicata anche dal campo semantico emunah, termine che deve venire tradotto non con veridicità, ma con fidatezza e fedeltà. E dal momento che la fidatezza risulta tanto determinante, essa viene ancorata in ultima, anche teologicamente, là dove in Proverbi 12:22 si dice che il Signore si compiace di coloro che agiscono con sincerità. In questo contesto si comprende allora anche che l'inviato fedele gode di una particolare stima. In tutti questi proverbi i saggi riflettono su qualità della parola in riguardo all'ambito pubblico. Là, infatti, dove viene pronunciata la parola del testimone o del messaggero, è in gioco una comunità. Siracide parla invece dell'affidatezza della parola umana, soprattutto all'interno del rapporto privato di amicizia. Proprio la parola dell'amico, sia che essa fondi o attesti un legame di amicizia, deve essere informata di fedeltà e sincerità. Inoltre la parola deve venire espressa con spirito di grande parsimonia e accuratezza. Proverbi 10:19: nel molto parlare non finisce la colpa. Chi frena le labbra è prudente. O 17:27: chi è parco di parole possiede la scienza. Uno spirito calmo è un uomo intelligente. Intelligenza e conoscenza, elementi indispensabili per far fronte in modo autentico alla vita, rimangono unite ad un parlare parco e misurato. Il verbo ebraico chasak, usato a questo riguardo, non significa silenzio, ma intende l'uso ponderato delle parole. Colui che fa un uso misurato delle parole, le soppesa e le tratta con cura, e gli fa attenzione a non pronunciare alcuna parola di troppo né alcuna parola in meno del necessario. Vi sono situazioni in cui tutto dipende dall'impiego voluto delle parole, così che la parsimonia può essere messa in parallelo con uno spirito calmo. Un ulteriore presupposto interno per l'efficacia della parola è l'accuratezza nel parlare. Si comprende l'importanza di questo elemento per i sapienti se solo si osserva l'estrema attenzione e varietà con cui essi descrivono l'accuratezza nel parlare. E si intendono con ciò anzitutto il parlare meditato, in cui le parole vengono soppesate nel dialogo con se medesimi. Proverbi 15-28. Questa parola, complessivamente equilibrata, si contrappone al parlare precipitoso, ad un discorso pronunciato senza aver riflettuto precedentemente i concetti. Per riuscire a parlare con ponderatezza è necessario far tesoro di cognizioni in maniera intelligente e avveduta, poiché solo in questo modo il saggio può avere successo al momento giusto. Per poter parlare con accuratezza bisogna ascoltare attentamente colui che parla, poiché chi risponde prima di aver ascoltato mostra stoltezza a propria confusione. Proverbi 18, 13. L'accuratezza nel parlare viene descritta anche con la metafora sorvegliare la bocca. Il significato di tutto questo è chiarito in maniera esemplare in un passo del Siracide 22,27. Chi porrà una guardia sulla mia bocca, sulle mie labbra un sigillo prudente, perché io non cada per colpa loro e la mia lingua non sia la mia rovina. Dal momento che l'esperienza quotidiana insegna che il parlare sconsiderato produce sventura e rovina, l'uomo è esortato a parlare con intelligente e avveduta riservatezza, in aperta contrapposizione con il parlare cauto e prudente sollecitato dai sapienti, si pone la parola dei profeti del giudizio, soprattutto nell'epoca antecedente l'esilio. Questi non si preoccupano di essere prudenti e riservati, ma con parole più pungenti di una spada a doppio taglio si scagliano contro tutti, censurando aspramente i mali e gli abusi ravveduti. Essi puntano il dito contro il re e il ceto dominante con una schiettezza che si fa beffa di ogni forma di prudenza. Il loro discorso non è certo caotico, ma anzi spesso seducente. Per la loro franchezza e la loro audacia nel parlare, essi diventarono ai loro tempi degli outsiders della società. Certo, nel corso successivo della sua storia, Israele dovette riconoscere che proprio queste parole erano parole di guida e di salvezza, e impiegò considerevoli sforzi a ciò che queste stesse parole così scontrose venissero riunite e conservate come testimoniano oggi i libri dei profeti. L'uomo in silenzio. La riflessione sull'importanza della parola ci porta infine a considerare anche il silenzio, rispettivamente la rinuncia alla parola. Nell'Antico Testamento troviamo a questo proposito un silenzio che scaturisce forzatamente da un dolore troppo grande. Così dice Schabert, solo molto di rado si racconta esplicitamente di qualcuno che sopporta il proprio dolore tacendo. Ma l'uomo devoto sa che ogni dolore proviene dal Signore e che esso dovrebbe essere sopportato in realtà nel silenzio e con sottomissione. Questa nozione è tuttavia di natura puramente teoretica. Nell'Antico Testamento il silenzio deriva non da sentimenti eroici o da una calma stoica, ma deve essere inteso come risultato di un dolore troppo grande, come frutto della paralisi provocata dallo sgomento o ancora come effetto del timore di fronte alla gioia maligna dei nemici, così Schabert. Proprio questo silenzio, sottolinea Norbert Lofink, si è ripercosso anche sul rito del lamento. Dal lamento funebre, l'irrigidimento e il silenzio rituale provocato dallo sgomento sarebbero penetrati anche nel momento della visita al malato. Gli amici, così leggiamo in Giobbe, capitolo 2, verso 12 e seguenti, gli amici alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. E dando in grida, si misero a piangere. Ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti, e nessuno gli rivolse una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Come mostra Estra, capitolo 9, versi 3 fino 5, questo silenzio dovuto al dolore si trova ritualmente in forma istituzionalizzata anche nei riti di penitenza. L'Antico Testamento parla inoltre di un silenzio che logora lentamente l'uomo. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato. Salmo 32, versi 3 e 4. In questo silenzio, dunque, affinché esso non divenga un silenzio mortale, deve irrompere la sincera confessione del difetto. Nell'Antico Testamento compare infine il silenzio di chi rimane agghiacciato dallo sgomento di fronte alla teofania divina. Giunsi, Ezechiele, dai deportati di Tel Aviv e rimasi in mezzo a loro 7 giorni come stordito. Ezechiele 3, verso 15. Si può dare poi il caso dell'uomo che tace per rispetto e massima stima. Così Gioppe afferma ad esempio che i notabili sospendevano i discorsi e si mettevano la mano sulla bocca. La voce dei capi si smorzava e la loro lingua restava fissa al palato. Gioppe 29, verso 9 e 10. In questo silenzio pieno di rispetto, che è espressione del chinarsi dinanzi alla sapienza creatrice di Dio, ammutolisce anche lo stesso Giobbe. Giobbe, rivolto al Signore, disse: ecco, sono ben meschino, che ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Ho parlato due volte, ma non continuerò. Capitolo 40, verso 3 e fino 5. Nei Proverbi 24, verso 7, troviamo un silenzio che è espressione di confusione e imbarazzo. È troppo alta la sapienza per lo stolto. Alla porta della città egli non potrà aprir bocca. Il silenzio dello stolto sta ad indicare che egli non può avere la parola nella cerchia dei sapienti. Tuttavia, proprio il silenzio può far sì che anche lo stolto appaia come saggio. Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tiene chiuse le labbra, per intelligente. 17, 28. La sapienza parla poi di un silenzio determinato da scarsa capacità di comprensione, nonché dalla totale incapacità dell'uditore. Non parlare agli orecchi di uno stolto, perché egli disprezzerà le tue sagge parole. Proverbi 23, verso 9. Il silenzio può però essere anche espressione di grande prudenza e di grande astuzia. dal momento che lo stolto non avverte quando è il momento di parlare e quando è opportuno invece che egli taccia. Vuole continuare a dire possibilmente tutto, anche quando ha nulla da dire. Analogamente è saggio tacere in una situazione accesa, affinché non si sviluppi una vera e propria lite. Il silenzio può in altri casi ancora essere motivato da una grande fedeltà alla comunità. In tal senso si esprima il proverbio, capitolo 11, verso 13, che ammonisce a non svelare cose che siano state trattate in una cerchia di persone fidate. Colui che va in giro, sparlando, ferisce la comunità. Lo spirito fidato tiene nascosta ogni cosa in nome della fedeltà nei confronti del proprio clan o dei propri amici. La riservatezza è dunque espressione di fedeltà alla comunità. Tacendo, il saggio mostra anche il suo rispetto per il prossimo. Chi disprezza il suo prossimo è privo di senno. L'uomo prudente invece tace. Proverbi, capitolo 11, verso 12. Il rispetto vieta o di parlare delle mancanze altrui o del dolore e della sventura del prossimo. Ambedue le interpretazioni risultano qui possibili. In ogni caso, è indice di saggezza affrontare con il silenzio il fallimento o la disgrazia altrui, poiché chi opprime il povero offende il suo creatore. Ecco dunque in conclusione che questo breve excursus attraverso l'Antico Testamento, un excursus che non ha certo pretesa di compiutezza, in cui molte cose sono state consapevolmente tralasciate, altre invece poste volutamente in evidenza, questo excursus può valere come stimolo per noi oggi a non abbandonare la lotta per la parola, anche se per questo dovessimo ritirarci per un tempo prolungato nel silenzio. Grazie. Ringraziamo il professor Strickmayr per questa analitica, illuminante, raffinata fenomenologia del silenzio e della parola nell'Antico Testamento. Facciamo una pausa di una ventina di minuti e 25 alle 18 iniziamo nuovamente i lavori con la comunicazione di Piero Rattin.